Buonasera e ben ritrovati sui 102.2 di Radio Sandonà con Overbooking, il programma sui 102.2 di Radio Sandonà che vi parla di libri. Ogni settimana in compagnia di Alvise, Daniele e Matteo si parla di racconti, novelle, saggi, romanzi. Questa sera è la volta di un romanzo. Presentiamo Mentre morivo di William Faulkner. Mentre morivo, pubblicato in Italia da Adelphi nel 2007, è una delle opere di esordio di William Faulkner. Dirò la verità, quando mi sono avvicinato a questo libro, diciamo, il momento in cui ne ho sentito parlare per la prima volta è un racconto di un mio conoscente che mi dice: sto leggendo questo libro di Faulkner, è folgorante, e pensa, lui ci ha lavorato quando ancora aveva 32 anni. È verissimo, il libro esce nel 1930 e ai tempi Faulkner non è ancora uno scrittore affermato, anzi possiamo dire che si dedicava a tutt'altra attività. Ai tempi, infatti, Faulkner lavorava in un'acciaieria e ha affermato in più di un'intervista, che potete trovare simpaticamente in internet, che ha lavorato a Mentre morivo nelle pause pranzo e dopo il lavoro, e per scrivere usava girare una carriola, la carriola con la quale lavorava durante le sue 8-10 ore in acciaieria, la girava sottosopra e la usava come improbabile tavolo per scrivere Mentre morivo. A questo punto, quando uno ti racconta che esiste un romanzo scritto su una carriola da una persona affaticata da 10 ore di acciaieria, uno pensa, o questo libro è un libro fantastico, entusiasmante e è un qualcosa che cambierà la letteratura moderna, o altrimenti è una sonora vaccata. Faulkner prende poi il Nobel nel 1950, il Nobel per la letteratura, quindi qualcosa fa pensare che non sia, che forse non siamo di fronte alla vaccata. In più, bisogna dire che Faulkner era nel periodo, attorno ai 30-32 anni, Faulkner scrive le sue opere maggiori, tra cui ricordo L'urlo e il furore, che è uscito, è apparso in America per la prima volta nel 1929, lo stesso Mentre morivo esce nel 1930, e poi un libro che avevo già letto di Faulkner che si chiama Santuario, secondo me non è tra i più riusciti dell'autore, però leggetevelo perché è un buono spezzone dell'America meridionale, degli Stati Uniti d'America meridionali, come anche è Mentre morivo, perché comunque è ambientato nel profondo sud dei campi di cotoni e della campagna americana. Santuario esce nel 31 e poi viene anche pubblicato in Italia da Adelphi nel 2006. Poi, appunto, nel 1950 Faulkner viene insignito del premio Nobel, ma quasi tutta la sua produzione letteraria è stata poi pubblicata in Italia da Adelphi, quindi trovate Le palme selvagge piuttosto che A Salonne e quindi Adelphi si occupa, sempre con le traduzioni che secondo me sono fatte veramente bene di Mario Materassi, copre un po' quella che è tutta la produzione dell'autore statunitense, che è probabilmente uno dei massimi esponenti della scrittura americana statunitense ad oggi. Allora, come dicevo, libro scritto negli intervalli di un lavoro pesante in acciaieria, libro ambientato, e questo è uno dei temi chiave di Faulkner, negli Stati Uniti del Sud, dove Faulkner anche ha vissuto. La prima scena è una scena particolarmente potente, ossia abbiamo due fratelli, Darl e Jewel, che camminano in un campo di cotone verso il tramonto e sentono a distanza il rumore continuo di una sega che sta tagliando delle assi di legno. Si avvicinano a quella che è la casa loro, quindi attraversano questo campo di cotone, attraversano un capanno degli attrezzi, e già lì si nota lo stile differente tra Darl, che aggira il capanno, e Jewel, che ci passa all'interno e salta fuori da una finestra. Dopodiché i due ragazzi si avvicinano sempre più fino a riconoscere il loro fratello Cash. Cash è un falegname e sta in quel momento sta tagliando delle assi al di fuori della finestra, al di fuori di una finestra di casa. Taglia le assi, le guarda, le soppesa, poi si avvicina alla finestra e le fa vedere a qualcuno che è all'interno della casa. E questo è, diciamo, l'incipit del brano, che poi andiamo a leggere come sempre con l'aiuto sempre valido di Daniele Terzariol, che da questa edizione del programma Overbooking, appunto, ci dedica la sua voce e le sue importanti manone nello sfogliare i libri di cui andiamo a parlare. Allora, che cos'è Mentre morivo? Mentre morivo sostanzialmente è il racconto scritto in flusso di coscienza di una famiglia e della storia che delle differenti storie che si intrecciano dei componenti della famiglia alla morte della madre. In sostanza, il libro prende avvio con la morte della madre e con la ultima volontà della madre, che è quella di farsi seppellire a notevole distanza, se pensate che la cosa va misurata in ore asino, a notevole distanza da dove la famiglia risiede. Allora, si tratta della famiglia Borden e è composta da i due genitori, Hans e Annie, e da cinque figli. I cinque figli hanno età diverse. I due figli più grandi sono Darl e Cash. Poi seguono Jewel, a notevole distanza dai primi due, e successivamente l'unica ragazza, l'unica figlia femmina della famiglia, di Widell, e poi Vardaman, che è ancora un bambino nel momento in cui i fatti si svolgono. Non c'è una connotazione geografica specifica, capiamo quasi subito dal fatto che ci siano dei campi di cotone e dal fatto che l'estate sia particolarmente calda e afosa e dalla presenza di insetti, eccetera, che ci troviamo nel sud degli Stati Uniti. L'altro riferimento geografico è la città di Jefferson, dove la madre, al momento di morire, vuole essere seppellita, e da dove la madre è originaria. Allora, prima di continuare, io leggerei l'incipit di Mentre morivo di William Faulkner, affidandomi, come dicevo, a Daniele, e prima cerchiamo solo di chiarire qual è l'accorgimento letterario scelto da Faulkner per portare avanti la narrazione. Dicevo che il libro è scritto in flusso di coscienza, ossia ci sono una serie di eventi che vengono spiegati da differenti partecipanti, a turno i figli, la moglie, oppure il marito della famiglia Borden, oppure in alcuni casi anche i vicini, il parroco o quanti partecipano a questi singoli eventi, e ciascuno dà il suo particolare punto di vista, il suo particolare contributo all'evento stesso. Quindi ciascuno crea e dà una prospettiva diversa all'evento che si è verificato. Diciamo che la voce narrante tra i vari personaggi è sicuramente Darl. Darl è il maggiore dei fratelli e Darl ha un ruolo significativo. Che Darl è un po' preoccupante in un certo senso. È tornato dalla guerra e non è tornato assolutamente a posto. Faulkner dedica a Darl una riflessione sulla pazzia, che a me è piaciuta particolarmente e che affida al fratello Cash, in cui dice: «Certe volte non sono tanto sicuro di chi ha il diritto di dire quando uno è pazzo e quando no. Certe volte penso che nessuno di noi è del tutto pazzo e nessuno è del tutto normale finché il resto della gente lo convince ad andare in un senso o nell'altro. È come se non fosse tanto quello che uno fa, ma com'è che lo guarda la maggioranza di noi quando lo fa». Darl è in questa situazione e è la voce narrante più importante di questo Mentre morivo. ad Arl viene affidata anche una delle frasi più potenti del libro, che se ne viene dopo una più potenti a mio modo di vedere, che se ne viene dopo una riflessione sul legame tra la vita e la morte, che è un argomento non facile, ma che Faulkner sa, diciamo, gestire con assoluta maestria. E Darla dice: quante volte sono rimasto disteso con la pioggia sopra un tetto sconosciuto a pensare a casa. Beh, andremo poi a vedere chi è Darl, cosa fa, come si lega agli altri fratelli e perché Darl ha un'importanza fondamentale per questo romanzo. E è proprio Darl, appunto, a dare avvio al romanzo con il primo capitoletto del libro. Darl, pagina 11. Giulia e io veniamo su dal campo per il sentiero, uno dietro l'altro. Benché io sia 5 metri avanti a lui, uno che ci guardasse alla baracca del cotone vedrebbe il cappello di paglia di Jules, sfondato e sfilacciato, di tutta una testa sopra il mio. Il sentiero, liscio a forza di piedi e che ormai, a luglio, è cotto e duro che sembra di mattone, corre come un filo a piombo tra i filari verdi del cotone lasciato a fiorire, su fino alla baracca in fondo in mezzo al campo, dove svolta e ci gira intorno facendo quattro angoli retti smussati e riprende per il campo, liscio a forza di piedi, e si allontana preciso. La baracca per il cotone è di tronchi grezzi con lo stucco e gli interstizi che da tempo è venuto via. Quadrata, il tetto sfondato, inclinato tutto con la stessa pendenza, se ne sta lì sbilenca nel sole in vuota e scintillante rovina, con due unici finestroni alle pareti opposte che danno sull'arrivo del sentiero. Quando siamo lì, io svolto e seguo il sentiero che gira intorno alla baracca. 5 metri dietro, Jewel, guardando dritto davanti a sé, scavalca con un unico passo la finestra, sempre fissando davanti a sé. Gli occhi pallidi come legno piantati nel viso legnoso, con quattro lunghi passi, traversa il locale rigido e grave come una di quelle figure di indiano alle tabaccherie che abbia addosso una tuta rattoppata e sia dotata di vita dalle anche in giù. E con un unico passo scavalca l'altra finestra e riprende per il sentiero mentre io arrivo, girando l'angolo. Uno dietro l'altro, a 5 metri di distanza e con giù e l'ora davanti, risaliamo il sentiero verso la base dello strapiombo. Vicino alla sorgente, legato alla stecconata, c'è il carro di Tull, le redini avvolte intorno al montante del sedile. Sul cassone ci sono due seggiole. Jules si ferma alla sorgente e dal ramo del salice prende la zucca vuota e beve. Io gli passo accanto e salgo su per il sentiero, cominciando a sentire la sega di Cash. Quando arrivo in cima ha smesso di segare. In mezzo a due distese di truccioli sta facendo combaciare due tavole. Fra una chiazza d'ombra e l'altra sono gialle come oro morbido, e sulla superficie portano in lisce ondulazioni i segni della lama dell'ascia. È un bravo falegname, Cash. Tiene le due asse sul treppiede a combaciare di taglio e formare un quarto della cassa finita. Si mette in ginocchio e allinea l'occhio al filo delle assi, poi le mette giù e prende l'ascia. Un bravo falegname. Eddie Burden non potrebbe disegnarne una migliore, di cassa, migliore per giacervi dentro. Le darà fiducia e le sarà di conforto. Prosegue verso la casa, seguito dal ciac, ciac, ciac dell'ascia. Grazie Daniele per questa versione sexy di Mentre morivo di William Faulkner. A noi è piaciuto tantissimo, ricordi Tom Waits su Sex Bomb ai tempi d'oro. Bene, a questo punto... Era Tom Jones. È vero. A questo punto uno si chiede: ma cosa sta facendo Cash? Cash sostanzialmente taglia delle assi di legno, deve costruire una cassa da morto. Abbiamo già capito che è un bravo falegname, e perché si rivolge ogni volta verso la finestra di casa? Perché dentro la madre sta morendo, è sul letto di morte e fa un cenno ad ogni tavola che Cash gli fa vedere. Con quel cenno accetta o rifiuta il lavoro di Cash. A questo punto, da qui prende avvio Mentre morivo di William Faulkner. Prima di andare un po' ad esplorare quello che poi succede nel momento in cui Eddie Burden muore, e andiamo un po' a svelare quelli che sono alcuni degli scheletri dell'armadio che hanno i singoli componenti della famiglia e poi quella che è la storia della famiglia collettivamente compresa, dicevo, prima di andare a mettere le mani su Mentre morivo di William Faulkner ci dà anche la possibilità di parlare un po' di blues, di metterci un po' di Johnny Cash, che tanto piace a questo programma, e giusto perché si può partire col blues e si sta parlando di tematiche non proprio allegrissime, mi è tornato in mente un bluesman che a me è caro, vorrei dire. Si tratta di Lightnin' Hopkins, di cui non credo abbiate mai sentito parlare, neanche io in realtà, non saprei dirvi niente su questa persona, a parte che fuma e ha degli occhiali neri, però non credo aiuti tanto poi la narrazione in genere. Vi faccio sentire Death Bells, è tratto da uno dei lavori, mi dicono, più rappresentativi di appunto Lightnin' Hopkins, che si chiama Blues in My Bottle. Ascoltatelo, poi mi dite se vi piace la voce. Sound like I can hear it, mom. Death bell ringing all in my ear. Like I can hear it morning. Death bell ringing all in my ear. Yeah, I knowed I was gonna leave on a chariot, but I didn't know what kind of chariot gonna take me away from here. I want you to remember every living creeper, every living creeper's bound to die. I want you to remember every living creeper, every living creeper's bound to die. When that chariot come at you, they'll break, run, and try to hide. Chariot gonna take me away from here. E questo era Lightnin' Hopkins con la sua Dead Bells, disco del 1961 che ci fa ritornare su quelli dei 102.2 di Radio San Donà. Siamo sempre in compagnia di Overbooking, il programma che si occupa di libri ma non solo. E come se ne occupa? Beh, facendo parlare me, che è probabilmente l'elemento di maggior discordia di questo programma. Dopodiché me, coadiuvato ovviamente da Daniele Terzariol in cabina di regia, ma soprattutto questo programma che si fonda su il nostro blog, da dove potete scaricare e ascoltare tutte le nostre puntate, www.bloverbooking.wordpress.com. Il blog è tenuto da Matteo Polo, Matteo che salutiamo e che è una delle presenze fondanti di questo programma. Beh, il blog dove appunto trovate tutte le nostre puntate in scaricamento o anche solo in ascolto, ma anche il blog che vi informa su tutte le novità che hanno a che fare con la letteratura o con la cultura in genere e che riguardano soprattutto il nostro territorio sandonatese, che in questo momento è particolarmente fervido. Vi segnalo due iniziative piuttosto interessanti a cura delle librerie Coop che presso il Centro Piave, quindi qui a San Donà di Piave, Centro Piave, librerie Coop. Cosa trovate? Trovate due interessanti iniziative legate alla scrittura, ossia se vi va di cimentarvi nella stesura di un incipit, ossia di un estratto, l'estratto iniziale di un vostro ipotetico romanzo, le librerie Coop fa una specie di competizione che premierà il miglior incipit. Trovate tutte queste informazioni su www.radiosandona.it o su www.bloverbooking.wordpress.com. Più in generale, se avete accesso a Facebook, potete cercare librerie Coop San Donà di Piave e lì troverete questo bando e soprattutto il tutte le indicazioni che riguardano il Club del Libro, che è questa iniziativa che Librerie Coop porta avanti ormai dallo scorso inverno, in cui ogni venerdì alle 18.30 c'è un incontro e una presentazione di un libro da parte di uno dei membri del club. Quindi non serve essere particolarmente dotati, e il fatto che io conduca questo programma fa già capire un sacco di cose, non serve essere particolarmente dotati, ma basta che vi piaccia un libro e abbiate voglia di parlarne e di condividere le vostre emozioni legate a quel testo con altre persone. Ci saranno c'è un incontro, ci sono delle persone che verranno a sentirvi, o potete scegliere di andare voi e ascoltare il programma che di volta in volta viene presentato alle librerie Coop. Dopodiché c'è un breve dibattito che sulle tematiche e sugli argomenti trattati nel testo. Devo dire anche che le tematiche trattate sono le più ampie e le più variegate possibili. Venerdì scorso c'è stato un incontro ad esempio sul Signore degli Anelli, ma ancora prima avevamo avuto sia saggistica che altri romanzi, che raccolte di novelle, addirittura libri di cucina, per cui è assolutamente una lettura a 360 gradi quella offerta da Librerie Coop. Io vi consiglio caldamente di informarvi e di partecipare a questi incontri. Bene, noi torniamo invece nella nostra modesta dimora qui a 102.2 di Radio San Donà a parlare di Mentre morivo di William Faulkner. Abbiamo letto l'incipit in cui in un caldo e desolato sud degli Stati Uniti, tra i campi di cotone, si consuma una tragedia, ossia Eddie Burden, la madre di questa famiglia composta formata poi da 5 figli e dal marito, Eddie Burden è sul letto di morte, sta morendo, è vegliata da alcuni dei suoi figli. Come abbiamo detto, si tratta di 4 maschi e una sola ragazza, di Widell, e dal marito ovviamente. Accanto a loro ci sono i vicini. Una cosa che colpisce subito del libro sono le distanze. Le distanze sono distanze non ragguardevoli, bisogna dire, se le pensiamo in un universo in cui ci sono le automobili e delle strade asfaltate. Le distanze diventano inarrivabili nel momento in cui ci collochiamo in un universo in cui il mezzo di trasporto prediletto è l'asino o, in casi fortunati, il cavallo. Quindi i vicini, la famiglia Tull, che veglia la... La morte di Eddie Burden in tutte le sue fasi, abita a 3 miglia, ma per fare queste 3 miglia ci mette 4 ore. Allora, questo dà ancora una maggior valenza alla scelta, all'ultimo desiderio di Eddie Burden. Eddie Burden, come dicevo, è di Jefferson, una città che sta a ben 15 miglia dalla residenza dei Burden, e per raggiungere Jefferson bisogna attraversare un fiume. Il fiume è una specie di linea di confine, una linea di demarcazione non solo non solo fisica, ma anche mentale per i membri della famiglia. Dovete pensare che il capo famiglia non andava in paese, ossia a Jefferson, da 12-20 anni ad un certo punto. Quindi l'ultima volontà di Eddie Burden è un qualcosa di veramente molto forte, ma che il marito sente di non poter rifiutare questa ultima volontà. E quindi nel corso del libro e nei capitoli che gli sono affidati continua a ripetere come una specie di mantra: gliel'ho promesso, lei avrebbe voluto così, lei avrebbe voluto che ci arrivassimo con le nostre forze. Quindi in questo tragitto che la famiglia Burden incontrerà, questo viaggio seppur piccolo, colmo di, diciamo, di problematiche legate a varie cose, adesso arrivo a spiegarvi cosa. Dicevo, in questo viaggio il padre, anzi, continuerà a dire: no, dobbiamo farcela con le nostre forze, lei non avrebbe voluto che avessimo chiesto aiuto a qualcun altro, lei non avrebbe voluto che dovessimo ringraziare qualcun altro per raggiungere il nostro risultato. E quindi questo mantra si porta avanti come un filo conduttore all'interno del libro. E proprio il viaggio in cui in cui questa famiglia accompagna la madre, l'ultimo viaggio di Eddie Burden, dà poi la possibilità ai membri della famiglia di spiegare un po' della loro vita. E quindi si rivelano anche delle verità nascoste della famiglia che all'apparenza non hanno turbato l'equilibrio che troviamo nella famiglia, appunto, all'inizio del romanzo. Ossia, all'inizio del romanzo quella che abbiamo di fronte è una famiglia monolitica, una famiglia patriarcale, pensate alla nostra memoria contadina, con il capofamiglia che, seppur anziano, seppur invecchiato dalle fatiche della terra, è comunque un capofamiglia solido, e i figli sono in un certo senso i bastoni della sua vecchiaia. Ossia, Cash è un falegname provetto e è richiesto in tutta la contea. Darl è il figlio di cui ogni padre sarebbe fiero, ossia è tornato dalla guerra, è tornato da quella che penso essere la prima guerra mondiale, e ora ridà una mano alla famiglia. Jewel è un piccolo imprenditore addirittura. C'è una parte del libro in cui tutta la famiglia ricorda che ad un certo punto tutti guardavano Jewel con occhi un po' stupiti, perché sembrava fosse diventato narcolettico. Ossia, si alzava con estrema difficoltà al mattino e tutte le notti andava a letto veramente presto. Appena dopo cena Jewel andava a dormire. E a questo punto, questo comportamento si perpetrava poi durante i mesi e i fratelli Darley Cash avevano a un certo punto pensato probabilmente a una donna. Vedrai che alla fine dell'estate, con il scender con il calar del freddo e con le giornate che si accorceranno, probabilmente cambierà le sue abitudini. Invece no, Jewel continuamente andava praticamente non faceva neppure i mestieri che possono essere affidati a un figlio adolescente nella fattoria. Non faceva i mestieri perché era sempre stanchissimo, sempre spossato, e ne approfittava di qualsiasi momento per dormire. C'è una parentesi molto divertente in cui Jewel si addormenta mentre munge una vacca e si addormenta sul fianco della mucca. Beh, e tutti si chiedono: ma chi è questa donna che, permettetemi il termine, spompa il giovane Jewel tutte le notti? In realtà no. Jewel ogni sera prende un lumino e va a dissodare un terreno a mani nude con la zappa di notte alla sola luce del lumino. E perché lo fa? Per comprare un cavallo. Jewel quindi lavora 9 mesi la notte, poi cerca di dormire e fa il meglio che può durante il giorno, e proprio per questa volontà di rivalsa sociale, in qualche modo, che gli altri fratelli e gli altri membri della famiglia in realtà non hanno. E questo fa capire molto di Jewel, e si capisce che Jewel ha un carattere emergente e un po' diverso dagli altri membri della famiglia già fin dalle prime battute del libro. E questo poi rimanda anche a uno dei grossi scheletri che c'è nell'armadio della famiglia Burden, che ovviamente non vi svelo perché sennò veramente sarei un cafone. Dopodiché andiamo ai figli minori. C'è una figlia 17enne, si tratta di Widell, ha forse solo un anno in meno di Jewel, e diciamo che le parti di narrazione che sono affidate a lei sono piuttosto concentrate su se stessa. Perché? Perché di Widell ha dei problemi personali, ossia è rimasta incinta e di padre ignoto, diciamo, e questo accadimento coincide con la morte della madre, e di Widell sta cercando, in un universo che a quel punto rimane solo maschile, di portare avanti la propria gravidanza o di terminarla in totale autonomia, ossia senza una guida, senza qualcuno con cui parlare. Quindi di Widell parla più che altro di se stessa e dei suoi rapporti con i fratelli, e lascia un po' da parte la figura della madre. L'ultimo figlio di cui vi parlo è Vardaman. Vardaman è un bambino e credo abbia meno di 10 anni nel libro, anche se l'età non è specificata, e vede una serie di avvenimenti che toccano la famiglia, quindi la morte della madre, la scelta di Widell di perdere la propria gravidanza, eccetera. Li guarda con gli occhi di un bambino. Una cosa che mi colpisce di uno dei capitoli affidati a Vardaman è un capitolo brevissimo che spiega la morte della madre e la paragona all'unica morte che aveva visto il bambino fino a quel momento, ossia la morte di un pesce pescato. Vardaman sapeva che poteva raggiungere il fiume, prendere un pesce gatto o una trota e portarli a casa. Il pesce si sarebbe dibattuto un po' e poi sarebbe morto. A quel punto poteva essere fatto a pezzi. Ad un certo punto Faulkner, con grande maestria, affida un capitolo a Vardaman e tutto quello che troviamo in una pagina bianca è: mia madre un pesce. Lì capiamo che Eddie Burden è morta. Bene, prima di tirare i fili di questo romanzo, che però ha talmente tanti punti di vista e apre la strada a talmente tante riflessioni che sicuramente non ci stanno nei 40 minuti che ha Overbooking ogni settimana il mercoledì. Andiamo a sentirci un altro po' di Stati Uniti del Sud, andiamo a Johnny Cash, l'indimenticato e l'intramontabile Johnny Cash, che uso perché Johnny Cash diciamo radica la sua musica in maniera abbastanza forte in quello che è il folklore americano e la cultura americana, soprattutto contadina. Il libro Mentre morivo è intriso di religiosità, una religiosità a volte distorta, a volte molto interiorizzata, ossia non è un dio cristiano piuttosto che buddista, piuttosto che induista, è qualcosa di proprio che ha a che vedere in molti casi con la natura e con il manifestarsi delle cose, quindi è un qualcosa che forse è ancora più atavico rispetto a una qualche costruzione religiosa come siamo abituati a considerarla. Beh, Johnny Cash mi è venuto in mente proprio perché ha raccolto in vari suoi dischi degli inni, ossia delle canzoni in puro stile Johnny Cash, in cui che dedica a Dio o a la natura in genere. Quindi ve ne faccio sentire una che si chiama The Old Account. Questo è Johnny Cash e questi sono i 102.2 di Radio Sanorà. Well, there was a time on earth when in the books of heaven an old account was standing for sins yet unforgiven. My name was at the top and many things below, but I went unto the keeper and settled it long ago, long ago, long ago. I settled it all. Yes, the old account was settled long ago. Hallelujah. And the record's clear today, 'cause he washed my sins away. And the old account was settled long ago. Well, the old account was large and growing every day, and I was always sinning and I never tried to pray. But when I looked ahead and saw such pain and woe, well, I went unto the keeper and settled it long ago, long ago, long ago. Yes, the old account was settled long ago. And the record's clear today, 'cause he washed my sins away. And the old account was settled long ago. Now, sinner, seek the Lord, repent of all your sins, 'cause this he has commanded, if you would enter in. And then if you should live 100 years below, well, you know you got it settled, 'cause you settled it long ago, long ago, long ago. I settled it all. Yes, the old account was settled long ago. And the record's clear today, 'cause he washed my sins away. And the old account was settled long ago. 102.2 Radio Sandonà in compagnia di Johnny Cash e di Mentre morivo, romanzo del 1930, si diceva, a firma di William Faulkner, poi premio Nobel per la letteratura negli anni 50 e una ad oggi delle voci più rappresentative della letteratura statunitense del Novecento. Come dicevamo, Mentre morivo parla degli ultimi istanti di vita di Eddie Burden, questa madre di una famiglia contadina patriarcale composta dal marito e dai suoi 5 figli, e del viaggio compiuto dai membri della famiglia per dare degna sepoltura e rispettare le ultime volontà di Eddie Burden, ossia seppellirla nella sua città natale, situata a qualche miglio di distanza dalla residenza appunto della famiglia Burden. 3 motivi per leggersi questo libro: innanzitutto la scelta narrativa e la decisione di diciamo dare, affidare alla voce di dei personaggi presenti nelle diverse azioni del romanzo differenti prospettive, differenti punti di vista sugli accadimenti a cui che fanno appunto parte del romanzo. Questo ricorda un po' guardare facce differenti di una stessa medaglia, quindi tramite gli occhi e la voce di dei diversi personaggi riusciamo a cogliere delle come i fatti vengono interiorizzati in maniera diversa dalle persone e come le persone rendano anche eventi difficili come la morte di una persona cara piuttosto che il proseguire della vita e un vissuto familiare, come appunto diverse persone colgano questi aspetti in maniera diversa. Quindi modo di scrivere, immediatezza dello scritto e soprattutto la abilità narrativa di William Faulkner. Perché? Perché questo ragazzo, ricordiamo, Faulkner scrive questo testo a soli 32 anni, riesce a variare gli stili in una maniera che è secondo me è disarmante, ossia riesce a cambiare connotazioni, toni, passare dall'alto al basso con una facilità veramente incredibile e vi colpirà. Ogni tanto il libro, secondo me, risulta quasi snervante perché Faulkner riesce a essere volutamente, diciamo, nebuloso nello spiegare certi eventi, ma per come la vedo io sta solo giocando con il lettore e questo fa venir voglia di continuare il romanzo, tenere il lumino acceso un po' di più, fare come Jewel, insomma, quindi tenere il lumino acceso un po' di più, andare a letto un'ora più tardi, ma concludere questo romanzo. Sono 200 pagine veramente folgoranti, secondo me uno dei più bei libri che io abbia letto in quest'anno. Ovviamente io ringrazio Daniele Terzarioli in regia, Matteo Polo che gestisce www.bloverbooking.wordpress.com, dove trovate tutto il nostro materiale in ascolto o in scaricamento, e vi rimando alla prossima puntata di Overbooking mercoledì prossimo, sempre sui 102.2 di Radio San Donà. Di cosa parliamo? Cambiamo decisamente registro e andiamo a parlare di un romanzo, Il condominio di J.C. Ballard. J.C. Ballard, uno dei più quotati e affermati scrittori di fantascienza del nostro secolo, si è occupato di fantascienza in senso asimoviano, se posso dire così, nella prima parte della sua carriera. Nella seconda parte ha affrontato in modo romanzato e romanzesco alcuni temi propri della psicologia sociale, e Il condominio è uno probabilmente il maggior esempio di di questo filone letterario che oggi colpisce e che ho scoperto di recente viene studiato anche all'università. Cerco di farvi entrare, e quindi abbandoniamo un po' il vecchio blues e il vecchio il sempre compianto Johnny Cash, cerco di farvi entrare un po' in quella che è l'atmosfera tipica di Ballard con l'ultima canzone, e poi andiamo a riparlarne la prossima settimana. Questo è Moby, Division, io vi saluto.